Focus Economia. Con Simone Spezia. Le 17 e 6 minuti, buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, puntata che cade in una giornata nella quale sembrano riacutizzarsi le tensioni per quanto riguarda l'euro, per quanto riguarda la moneta unica, in particolare si riacutizzano per quanto riguardano le condizioni della Spagna, le difficoltà della Spagna. Una serie di dati economici in arrivo da Madrid, ma soprattutto ancora problemi per quanto riguarda i bilanci delle regioni. Oggi a chiedere aiuti è stata la regione di Valencia, mentre si inizia ad intravedere il piano spagnolo, perché come sapete il problema spagnolo è, oltre ad un problema di recessione, di scarsa crescita e di difficoltà economica complessiva, è un problema di quello che c'è dentro i bilanci delle banche. E dunque si sta delineando il piano del governo spagnolo per creare una cosiddetta bad bank, una cattiva banca, esattamente così, nella quale mettere tutte le attività problematiche delle banche iberiche. Vedremo di capire più avanti nel corso della trasmissione che cosa esattamente questo significhi, mentre l'esecutivo spagnolo continua a negare il fatto che sarà costretto a chiedere gli aiuti. Ora qua, francamente, non si vuole gufare, però bisogna dire che la memoria cade verso quello che è stato lo scenario greco. Se lo ricorderete, per un anno e mezzo, naturalmente la condizione è completamente diversa, il paese è completamente diverso, la condizione del bilancio pubblico spagnolo è completamente diversa. E però lo schema è di un governo, quello greco, che per un anno e forse più ha continuato a dire non abbiamo bisogno di aiuto e poi alla fine è stato costretto a chiederlo. Vedremo se veramente sarà costretto a chiederlo. Tutto questo naturalmente ha un impatto sui mercati. Giusto un attimo fa l'euro è sceso sotto quota 1,25 contro dollaro, adesso è già ritornato sopra 1,25,03. E le borse sono negative, il FTSE MIB cede l'1,08%, il FTSE OSHARE lo 0,94%, Parigi lo 0,84%, Francoforte l'1,6%, ci sono dati non buoni nemmeno per la Germania, iniziano a sentirla pure loro a quanto pare. Londra cede lo 0,6%, giù anche l'America, meno 0,75% sul Dow Jones, e per quanto riguarda gli altri indici, il Nasdaq giù dello 0,95%, lo Standard & Poor's dello 0,76%. Mercati negativi in Italia, nonostante il tutto sommato buon andamento dell'asta dei titoli di Stato, anche se sui decennali il calo dei rendimenti non è stato così forte, sono allineati a quelli del cosiddetto mercato secondario, quello nel quale vengono trattati quotidianamente i titoli di Stato, e però complessivamente buono. E questo sarà l'altro tema di approfondimento, quindi parleremo del debito italiano. Infine, dato che siamo in piena convention repubblicana, come quotidianamente vi raccontiamo nei giornali radio, cercheremo di capire qualcosa di più sulla politica, e siamo negli Stati Uniti ovviamente, convention repubblicana negli Stati Uniti, cercheremo di capire qualcosa di più sulla politica economica che avrebbe in mente il candidato repubblicano Romney, che è da quel lato che sta subendo gli attacchi più pesanti da parte dell'amministrazione Obama. Come sempre è da questo lato che si giocano nel portafoglio, che si giocano le elezioni americane, quello che accade più spesso, diciamo così, e vedremo di approfondire appunto che cosa contiene questa politica economica di Romney e come potrebbe cambiare la Casa Bianca con lui alla guida, cosa farebbe un'amministrazione Romney. Questo è il quadro, i mercati ve l'abbiamo dati, poi come sempre scenderemo nel dettaglio. Il numero per intervenire in diretta è sempre quello, 349-238-6666 via SMS per domande e commenti. Le notizie in breve di oggi. Iniziando dall'oro, inizialmente poco mosso a 1658 dollari l'once in apertura in Asia e poi dovrebbe essere intorno ai 1654 dollari l'once. Per quanto riguarda il petrolio, non molto mosso, almeno il WTI, il greggio quotato a New York, quello con consegna d'ottobre in calo dello 0,16% a 95,3 dollari al barile, 0,34, pardon. Naturalmente pesa in positivo il fatto che l'uragano Isaac in realtà non ha questo impatto così forte appunto sulla produzione di greggio. In rialzo invece quello quotato a Londra, il Brent dello 0,5% a 112,54 dollari al barile. No, scusate, chiedo scusa, ho guardato la colonna sbagliata, sono 113,1 dollari al barile. Il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti dice che si sta lavorando alla sterilizzazione dell'IVA sulla benzina. In sostanza, che cosa vuol dire? Vuol dire che in pratica l'IVA si abbassa ogni volta che si alza il prezzo del petrolio, sarebbe più o meno questo, cioè la sterilizzazione dell'effetto dell'IVA sul rialzo del prezzo del greggio. L'abbiamo sentita mille volte, a dire il vero vedremo che cosa succederà. Veniamo alla crisi europea. Oggi c'è stato un incontro tra Mariano Rajoy e François Hollande, ma forse l'incontro più importante di oggi è stato ancora una volta un incontro di Angela Merkel, quello a Pechino, in visita a Pechino. La cancelliera ha incontrato il premier cinese Wen Jiabao, il quale dice: ci sono due preoccupazioni principali, in primo luogo di sapere se la Grecia lascerà l'euro, poi di sapere se l'Italia e Spagna prenderanno misure complete per la ripresa. Alcune indiscrezioni circolate, e quindi prendetele con il beneficio del dubbio assoluto, dicono che in realtà la Cina alla fine si sia impegnata, verificata in una serie di condizioni, a comprare qualche titolo di Stato di paesi periferici. Vedremo cosa succederà. Anche questa è una cosa che abbiamo sentito più volte, quindi la teniamo là e vedremo. Intanto la banca cinese ICBC ha siglato un accordo con Airbus per l'acquisto di 50 aerei A320, valore 3 miliardi e mezzo di dollari. L'intesa è stata siglata nell'ambito della visita appunto di Angela Merkel. I due paesi hanno siglato altre intese, oltre 10, tra i quali una per la creazione in Cina di un impianto di assemblaggio per l'Airbus ed altri accordi nel settore dell'automobile, delle comunicazioni, dell'energia, dell'ambiente e della cooperazione marittima. E però dalla Germania non è che arrivano buone notizie, perché, almeno per loro, la crisi dell'euro frena l'export tedesco. Sono calate le esportazioni nell'eurozona nel primo semestre del 2012. Sono calate dell'1,2% a 211,6 miliardi di euro. Naturalmente la Germania ha anche molti altri mercati. Crolla, e questo è un dato interessante, nei paesi del sud Europa. In Italia il dato è un meno 8,2%. Dati che sono ancora peggiori per il Portogallo, meno 14,3%, la Spagna meno 9,4% e la Grecia naturalmente meno 9,2%. Del resto sono i paesi con maggiori difficoltà economiche. Per quanto riguarda sempre la Germania, si registra una lieve crescita della disoccupazione. Nel mese di agosto il numero di disoccupati è cresciuto di 29.000 unità. Si tratta comunque di un numero inferiore di 40.000 unità rispetto al dato dello stesso periodo dell'anno scorso e la percentuale resta invariata, al 6,8% la disoccupazione un anno fa era al 7%. Come sentivate già nel giornale radio, ci sono i dati di Moody's. La crisi dell'Eurozona, dice, continua ad essere la più grande minaccia per la ripresa economica mondiale, dice l'agenzia di rating. L'outlook, ossia le prospettive, la visione di prospettiva per la ripresa nel 2012-2013 è peggiorato. E poi ci sono i dati sull'Italia. Moody's rivede in peggio le stime di crescita. Ora, dice Moody's che il PIL italiano registrerà quest'anno una contrazione compresa tra il 2,5% e l'1,5%. Insomma, siamo a 3 mesi dalla fine dell'anno e la forchetta indicata da Moody's è addirittura di 1 punto percentuale. Per l'anno successivo tra l'1 e lo 0. C'è la vicenda del Sulcis, per venire all'Italia sono stati riportati in superficie con le barelle 2 minatori della Carbo Sulcis che si erano asserragliati a meno 400 metri, raggiungendo il fondo del pozzo occupato, una trentina di metri più su, ormai da 4 giorni. A quella profondità le condizioni sono proibitive con il rischio concreto di collassi. Nel frattempo lo stesso segretario De Vincenti, sottosegretario De Vincenti, del quale abbiamo parlato prima a proposito della sterilizzazione dell'IVA, ossia quello allo sviluppo economico, dice che non sta scritto da nessuna parte che la miniera debba chiudere il 31 dicembre. Mentre il vicepresidente di Assocarboni, Rinaldo Sorgenti, sulla vicenda del carbone del Sulcis, della quale si era detto, e lo avete sentito anche in questa trasmissione nei giorni scorsi, è un carbone ad eccessivo contenuto di zolfo e quindi non è conveniente trattarlo, questa mattina a Radio 24 ha risposto così. Allora, verissimo che il carbone del Sulcis è noto per essere un carbone con un alto contenuto di zolfo, però quello che conta oggi sono le moderne tecnologie e le moderne tecnologie permettono oggi di poter utilizzare convenientemente quel carbone senza i problemi che nel passato evidentemente creava questa situazione. Se si conoscesse, si divulgasse un attimino di più quello che è il progetto integrato del Sulcis, che da alcuni anni è in itinere e che è stato recentemente anche portato all'attenzione della Commissione europea, che sta attentamente esaminando la cosa, si potrebbe realizzare nel Sulcis, peraltro l'unica area in Italia dove la demagogia non porta a discriminare e a criminalizzare il carbone, ha un progetto che è veramente virtuoso e di valenza a livello davvero mondiale, perché permetterebbe di rilanciare l'estrazione del carbone fino a un potenziale di circa 1,5 milioni di tonnellate, che renderebbe evidentemente a quel punto economico quell'attività, costruire a bocca di miniera una moderna centrale a carbone con la tecnologia, per esempio SNOX, adattissima per trattare combustibili ad alto contenuto di zolfo. Un esempio, questa tecnologia è stata applicata nelle centrali termoelettriche che sono presso la raffineria Eni di Gela, dove appunto bruciano il coke di petrolio che deriva dalla locale raffineria che ha un alto contenuto di zolfo. Dite a proposito della notizia, ce lo dite con uno stile un po' brutale, però insomma, non è male l'idea. La Merkel bussa a denari in Cina ed esplora nuovi orizzonti di mercato, visto che la mucca europea non dà più latte. Questo è un vostro messaggio al 349-238-6666. In realtà, da quel che si è capito, Merkel avrebbe bussato a denari un po' per tutti, chiedendo addirittura ai cinesi, insomma, muovendosi perché i cinesi acquistino titoli di Stato ai paesi periferici. Noi parliamo proprio dei nostri titoli di Stato adesso. Ci sono stati tassi in calo nell'asta dei BTP a 5-10 anni. E buona la domanda. Il Tesoro ha venduto titoli per complessivi 6 miliardi e mezzo, obiettivo massimo. In netto calo il rendimenti del BTP a 5 anni al 4,73% dal 5,29% di luglio. Meno marcato quello sul decennale al 5,82% dal 5,96% precedente. Saluto Isabella Bufacchi del Sole 24 Ore. Buonasera Isabella. Buonasera a tutti. E buonasera Luca Bagato, amministratore unico di Macro Markets SRL, che è un gestore obbligazionario, insomma un gestore esperto di obbligazioni soprattutto. Buonasera Bagato. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Isabella, prima di tutto un giudizio su quest'asta dei titoli di Stato. Forse le aspettative, magari non quelle del mercato, ma quelle di noi comuni cittadini, erano per un calo maggiore dal lato dei decennali? Beh, il decennale, ricordiamolo, è il titolo di Stato più difficile da collocare, perché è quello con la scadenza più lunga e che quindi riflette, incorpora tutte le incertezze che ci sono nell'aria, sia in Europa che in Italia, cioè un'Italia comunque che ha un alto debito PIL, che è in recessione, che l'anno prossimo ha le elezioni. Ci sono insomma le notizie ultime sulla Spagna ancora con le regioni, ma la Spagna prima con le banche, quindi non si sa se la Spagna chiederà più aiuti all'Europa, quindi c'è il famoso contagio e io ci vedo un po' tutto e nonostante ecco il contagio perdurante, anche quello greco, perché ricordiamo anche di Grecia, cioè, si parla un giorno sì un giorno no, ecco direi che comunque siamo riusciti a raccogliere l'importo massimo del BTP a 10 anni, 4 miliardi, con dei rendimenti comunque un po' in calo, ti ho detto poco, però insomma erano molto alti a fine luglio al 5,96 e poi guarderei molto anche il BTP a 5 anni, è importante che sia sceso sotto il 5%, come in questa settimana comunque il BOT è tornato sotto il 2, all'1,5 circa, il CTZ è tornato al 3, da quasi il 5 di un mese fa. Nel complesso direi 20 miliardi di aste molto buone. Allora, nel frattempo, sempre ottimo, Mauro Del Corno mi ha portato un'agenzia qua, la quale ci dice, questo per darvi la misura, come sempre, di quanto a volte in questo continente si parli un po' a vanvera, insomma, è una questione che è stata anche stigmatizzata dai vertici europei e anche dalla Banca Centrale Europea. Abbiamo una dichiarazione del primo ministro slovacco, Robert Fico, il quale dice: vedo il 50% di possibilità di collasso per l'eurozona. Ora non conterà niente il ministro delle finanze slovacco, il primo ministro slovacco, però insomma come dire, farebbe bene forse a tenere la bocca chiusa. Allora Luca Bagato, che opera sui mercati da questo lato, conferma la sensazione di una schiarita? Ma come diceva giustamente Isabella Bufacchi, il discorso 10 anni è un buon risultato, tenete conto anche che è un nuovo titolo, perché è novembre 22 che prende il posto del settembre 22 e 10 anni fa da riferimento per quanto riguarda il BTP Bund. Come spread in realtà stiamo ancora lottando un po' su questo livello tra il 4,30 e il 4,50, è importante che non si vada oltre il 4,70, altrimenti in qualche modo la correlazione poi con la Spagna tende ad aumentare ed è possibile che possiamo andare incontro a una fase di allargamento abbastanza veloce anche oltre 500, che nel momento non vediamo, quindi la schiarita è in corso, anche perché secondo me il mercato come spread ha seguito il movimento dell'azionario, che dal 20 luglio ha iniziato un rally piuttosto corposo, il nostro indice è andato pesantemente sotto 13.000, adesso è un po' tornato indietro, oggi siamo intorno a 14,8, dopo aver toccato 15.000. Per la prima volta lo spread si è leggermente riallargato, seguendo appunto la discesa dell'indice azionario, ma non come aveva fatto ad esempio nei mesi giugno e luglio, quindi è un primo segnale che il mondo obbligazionario sembra resistere meglio rispetto a quello azionario. Ma quindi ci spieghi, Bagato, lei vede una relazione inversa rispetto a quella che abbiamo visto noi nell'ultimo periodo, cioè noi abbiamo sempre guardato al mercato azionario in quest'ultimo periodo come direttamente correlato o quasi all'andamento dei titoli di Stato. Lei ci sta dicendo in quest'ultimo periodo in realtà probabilmente è avvenuto il contrario. Sì, un po' anche perché c'è stata questa introduzione dei limiti da parte della Consob e poi sulle vendite allo scoperto dei titoli bancari, che frenano molto probabilmente le oscillazioni del comparto, che è più correlato poi di fatto al BTP, perché le banche italiane sono pesantemente esposte sul BTP. Però effettivamente qualcosa di diverso è avvenuto, sembra quasi che al di là del suo discorso delle aste, in generale ci sia stato un maggiore interesse per quanto riguarda i titoli europei, se ne è parlato molto, qualche investitore appunto anche oltreoceano ha cominciato a manifestare interesse per l'eurozona, sembrerebbe quasi che i due mercati comincino ad avere un andamento un po' differente, che si è visto anche un po' nel cambio, perché l'euro comunque nei giorni scorsi ha perso terreno anche molto velocemente, basta vedere la giornata di ieri con oscillazione anche di quasi una figura sull'euro dollaro, e in realtà invece sul BTP Bund la situazione è molto più contenuta, anche in termini di prezzo. Il BTP Future, che fa un po' di riferimento sul mercato dell'Eurex, ha toccato un picco a 102,20, poi è sceso, ma è sceso intorno a 101 la figura. In realtà nei mesi diciamo pre-estivi i movimenti solitamente erano di 3-4 figure, cioè andava a toccare magari 102 e poi velocemente tornava verso 98. Ci sembra più resistente, ecco, adesso. Più resistente. Isabella Bufacchi, l'impressione è che a tutto questo, che tutto questo corrisponda anche ad una schiarita politica, evidentemente, se così vogliamo chiamarla, ma una schiarita, come dire, anche dal lato del ruolo di Francoforte, anche quella ossia della Banca Centrale Europea, insomma, anche quella è una questione politica, come abbiamo visto. Sì, devo dire che il fatto che la Banca Centrale Europea ha un po' sciolto le riserve con l'ultima conferenza stampa del Presidente Draghi, anticipando che stanno pensando di ricominciare ad acquistare i titoli di Stato dei paesi che chiedono ufficialmente aiuto, quindi nel caso della Spagna vedremo come andrà a finire, ma prima dovrebbe scattare eventualmente lo scudo anti-spread, chiamiamolo così, attivato dai nostri fondi di stabilità IFSF e poi in prospettiva l'ISM, l'abbiamo detto molte volte, questi fondi non hanno la capacità di intervento immediata, non hanno grandi capacità anche di avere liquidità per grandi importi, e quindi sono degli strumenti anticrisi che magari possono funzionare male per arginare l'ampliamento dello spread. Quando invece adesso la Banca Centrale Europea ha fatto capire e hanno annunciato che sono disposti a intervenire, beh, secondo me questa è veramente stata la grande svolta, e tutte le nostre aste di questa settimana lo dimostrano, cioè una Banca Centrale Europea che dichiaratamente intende acquistare titoli sulla parte a breve di un paese che chiede aiuto, ecco lì che mi hanno detto anche gli americani sono corsi a comprare i BOT e CTZ nelle nostre aste, cioè i titoli a breve, perché avevano dei rendimenti altissimi, e nel caso di intervento della BCE. Ecco, diciamo che i BTP a 5-10 anni sono rimasti un po' scoperti da questo ombrello della Banca Centrale Europea, perché per ora almeno quello che è stato detto ufficialmente è che la BCE potrebbe acquistare sulle parti a breve della curva, senza dire quali sono le scadenze. Il mercato si sta facendo un'idea, non so, fino a tutti i BOT, anche i CTZ, fino a 3 anni, non si sa. Certo, i BTP a 5-10 anni restano un po' fuori da questo primo impatto positivo dell'ingresso della BCE, il ritorno della BCE sul mercato secondario dei titoli di Stato. Però ecco, noi non sappiamo se lo scudo anti-spread dei fondi di stabilità europei invece interverrà nelle aste dei BTP a 5-10 anni, nel caso in cui l'Italia dovesse chiedere aiuto. Ecco, io faccio gli esempi con i BTP perché stiamo parlando d'Italia, ma in realtà se qualcosa si dovesse muovere muovere sul fronte dei nuovi strumenti anticrisi, forse sarà nel caso i bonus, Spagna. i bonus soprattutto. Allora, Bagato, ci chiedono un ascoltatore cosa intende quando dice figura, ma immagino intenda i numeri che ci sono subito dopo, cioè 101 punto qualcosa, insomma. Esatto, 102, 101 è una figura, sì, sì. Esatto. Ok, perfetto. Bagato, noi aspettiamo questi speculatori ad agosto, che è successo? Ma è vero, infatti, allora, io penso quello che ha detto Isabella Bufacchi è corretto ed è giustissimo, lo condivido molto. C'è stata questa dichiarazione della Banca Centrale Europea che ha richiamato l'attenzione su un possibile riacquisto, ha stabilizzato in qualche modo il patrimonio delle banche, soprattutto sulla parte a breve. Oggi, infatti, dopo l'asta, tanto per dire, la curva tra i 2 e 10 anni ha fatto un ripetimento di 8 punti base, che vuol dire che 2 anni ha guadagnato nuovamente quasi appunto 90 centesimi nei confronti di 10 anni, che è un segnale che la parte a breve continua ad andare bene. A guardare, addirittura nelle ultime 2 settimane non si era praticamente mossa, mentre invece BTP cominciava ad avere un andamento più volatile. Gli speculatori che usano molto la parte a breve per capire come si muove il mercato, perché dovete considerare che quando ci sono dei rischi di credito si vedono più sulla parte a breve che sulle parti a lunghe, si sono resi conto che in realtà sì, c'era spazio per un po' di speculazione, ma molto limitato. Questo è il grande valore, secondo me, delle dichiarazioni di Draghi. Ha in qualche modo tarpato le ali alla speculazione sulla parte a breve. Basta ricordare che quando appunto scoppiò il caso Grecia, quindi parliamo dell'estate 2010, immediatamente la curva è andata invertita, cioè sì, i rendimenti della parte a 2 anni erano notevolmente più alti. Le 17:36 minuti, qualche sms sul premier slovacco che ci dite tra l'altro che si pronuncia Fizzo e non Fico come abbiamo detto noi, però insomma ci è scappata la pronuncia all'italiana, Robert Fico. Non stiamo dicendo che debba star zitto necessariamente, che è meglio che queste cose non si dicano a mercati aperti, e questo è il primo elemento. In secondo luogo, semplicemente che ci vuole un po' di cautela, perché se immaginatela in Italia o in un altro paese che conoscete meglio, immaginate un presidente del Consiglio che dica una frase di questo genere, ossia vedo il 50% della possibilità di collasso per l'Eurozona, così come il 50% di possibilità che regga, e provate ad immaginare l'impatto che questo potrebbe avere su tutti i risparmiatori. È semplicemente una raccomandazione di cautela a chi ci dice non parlate di schiarita, come vi permettete di parlare di schiarita dal lato dei mercati. Diciamo che la schiarita dei mercati, sui mercati, è nei numeri, e su questo non ci si può fare niente. Abbiamo invitato una persona che da anni si occupa di mercato dei titoli di Stato, che è appunto Isabella Bufacchi, il Sole 24 Ore, e una persona che sui mercati ci sta e ci opera quotidianamente sull'obbligazionario, proprio per capire se questa schiarita effettivamente c'è. Tutte e due ce l'hanno confermata, le aste di titoli sembrano confermarla, vedremo poi che cosa succederà. Ma veniamo alla Spagna. Il rafforzamento oggi in Spagna, sia lo spread, la differenza di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi, e quanto il rendimento dei bonus a 10 anni, al 6,59% in questo momento, mentre lo spread è a 527 punti. Per darvi la misura, quello italiano è a 446. Su notizie di vario genere, tra cui quella che la regione della Murcia ha detto che chiederà un sostegno finanziario al governo centrale di Madrid, e si indicano altre aree del paese pronte a chiedere sostegno. Saluto Fabio Fois di Barclays Research, buonasera. Buonasera a lei, ciao. E che si occupa esattamente di Spagna, insomma, è uno dei paesi dei quali si occupa. Vorremmo avere qualche chiarimento innanzitutto sull'elemento politico, ossia oggi c'è stato un incontro tra François Hollande e Mariano Rajoy, il presidente francese e il premier spagnolo. Ancora una volta allora, Rajoy ha detto che le differenze di tassi nell'eurozona sono inaccettabili, sono parole che abbiamo già sentito da altre parti, anche dall'Italia tra l'altro, e anche a dire il vero, anche se in maniera più sfumata, dal presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi, sta continuando a dire il governo spagnolo che non avrà bisogno dell'aiuto dell'Unione Europea. Allora, come si diceva prima, senza voler gufare, però l'idea ci ricorda un po' lo scenario greco, ecco, un anno a negare di aver bisogno d'aiuto per poi arrivare al limite. Lei come la vede? Ma io credo che la questione della Spagna e del fatto che il governo spagnolo avrà bisogno di un supporto europeo sul mercato secondario, direi che ormai è un segreto di Pulcinella. Il premier Rajoy in ogni modo di avvicinare probabilmente la richiesta degli aiuti quando si terrà l'Eurogruppo di metà settembre, e in questo modo probabilmente vuole anche chiedere alla BCE di mostrare un pochino le carte, di far vedere cosa è disposta a fare sui mercati. Ma ci ho detto, io credo che una delle ragioni del perché recentemente poi l'Italia e la Spagna sono state supportate nel sentimento dai mercati è proprio perché ci si aspetta che la Spagna riceva questo aiuto, insomma mi sembra inevitabile. La questione del paragone sulla Grecia, sì, ci può stare, ci sta nella misura in cui fino all'ultimo tutti negano sempre di aver bisogno di aiuto. Ovviamente è ben chiaro il fatto che sono due paesi completamente diversi, poi, no? Insomma, non certo, è che. No, assolutamente il genere di aiuto che riceverà la Spagna è diverso, nel senso che la Spagna riceverà un aiuto di supporto sui mercati, in cambio dovrà probabilmente fare un pochino di più. In questo famoso memorandum, sì, non sono quello che dice, non sono aiuti diretti, non sono versamenti nelle casse dello Stato puri e brutali come è avvenuto e sta avvenendo in realtà per la Grecia. Il lato delle regioni, oggi notizia, si dice che leggiamo dal portavoce dell'esecutivo catalano Francesc Homs, spero di averlo pronunciato bene, citato oggi dai media: se il governo non riceverà presto i finanziamenti potrebbe avere problemi enormi per far fronte alle scadenze immediate. La sostanza è il rischio di una sospensione dei pagamenti, appunto, anche con gli aiuti. Ecco, c'è questo buco delle regioni. Abbiamo visto fino adesso, mi pare, 5 abbiano richiesto aiuti, se non erro. Si teme qualcosa di più, immagino, Fois? Sì, probabilmente le regioni avranno un problema con il loro target e non lo riusciranno a centrare. Ci ha detto il governo spagnolo è riuscito a mettere insieme questo fondo più o meno di 18 billion che dovrebbe, senza aumentare e senza andare a gravare sui conti del paese stesso, perché sono risparmi o entrate fiscali addizionali che il governo è riuscito a trovare, dovrebbero riuscire ad aiutare i bisogni finanziari di cash, di liquidità di breve periodo delle regioni. Ciò detto, già una buona parte sembrerebbe in un certo senso percettato di questo fondo, e quindi finché si sta sotto 18 miliardi probabilmente non ci sarà un costo addizionale per il paese stesso, quindi per i conti dello Stato. Se si dovesse andare oltre, ovviamente qualcuno ci dovrà mettere i soldi e sarà lo Stato, anche perché è evidente che la Spagna non lascerà che nessuna regione vada in default, anche perché se anche solo una delle regioni piccole dovesse andare in default ci sarebbe un effetto tsunami sul paese che sarebbe impossibile da fermare. L'ultima domanda che ho per lei è su questo progetto del governo spagnolo. Allora, abbiamo detto lungamente che uno dei grandi problemi spagnoli, forse il maggiore naturalmente è quello delle banche e degli asset, ossia delle attività che queste banche hanno in portafoglio. Il governo spagnolo creerà una cosiddetta bad bank, ossia una banca cattiva, esattamente come, come ve la diciamo, nella quale mette nella quale le banche possono riversare queste attività difficili, problematiche. Ci spiega molto brutalmente a che serve una cosa di questo genere e che cosa può fare una banca di questo genere? Dunque, sì, certo, cercherò di essere il più semplice possibile. Innanzitutto non stiamo parlando di una banca nel senso canonico del termine, cioè non ci sarà attività di prestito, cioè non si prestano soldi a nessuno. È di fatto uno strumento, un veicolo finanziario particolare nel quale vanno a confluire le attività che sono più rischiose di una banca. Faccio un esempio, l'esempio della banca Bankia ha alcune attività che sono i prestiti al settore delle costruzioni che sono un po' problematiche e quindi vengono prese e messe in questa bad bank. L'idea qual è? L'idea è quella di evitare che il core business della banca, che viene in un certo senso ripulita, quindi di Bankia, venga interamente e negativamente influenzato dal fatto che ci sono delle attività così rischiose. Ma questa bad bank è di Stato, cioè tutto questo non va a pesare sul bilancio dello Stato? Dipende dal modello che si sceglie per costruire la bad bank. Di solito c'è una garanzia messa dallo Stato, quindi dal settore pubblico, che qualora la bad bank debba andare, vada come si dice a volte sott'acqua e quindi debba dover ripianare alcune posizioni, a quel punto dovrebbe intervenire lo Stato. E questo è proprio il problema spagnolo, nel senso che quando la questione si è posta in Germania, a un certo punto chi faceva da garantore ultimo era il governo tedesco. Il governo spagnolo è evidente che non è nella posizione di poter garantire la bad bank, nel senso che altrimenti nessuno si comprerebbe una bad bank se il garante è il governo spagnolo, perché ovviamente si creerebbe questo feedback negativo che si sta cercando in ogni modo di rompere, cioè questa relazione fra banche e conti pubblici dei paesi. Un modo per venire fuori da questa cosa è creare una bad bank europea, di fatto dove ci siano poi una sorta di pacchetto di attività scomode, diciamo, di vari paesi a fronte poi di garanzie europee. Il problema è che è un esercizio estremamente complicato. 17:47 minuti, ancora sulla schiarita della quale parlavamo prima, giusto per essere precisi, la schiarita della quale parlavamo è sui mercati dei titoli di Stato italiani, non è sull'economia reale, che sappiamo benissimo che è in una condizione difficilissima. Lo dico perché è arrivato un sms in merito al 349-238-6666, la borsa. Guido Maurino, Radio Core, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, chiusura alla fine negativa, sui timori per la Spagna ne abbiamo parlato sostanzialmente fino adesso, meno 1,09% il FTSE MIB, meno 0,94% il FTSE All Share, negativa tutta l'Europa, e con Parigi giù dell'1,02%, Francoforte dell'1,6%, negativa anche l'America, giù dello 0,76%, Londra dello 0,33%, euro che è sceso fino a sotto quota 1,25 e poi è ritornato appena sopra 1,25,02 in questo momento. Dunque io ti terrei a questo punto, visto che i mercati li abbiamo ampiamente commentati prima in generale sui singoli titoli, partendo nuovamente dal Monte dei Paschi. Nuovamente dal Monte dei Paschi, che anche oggi ha ceduto il 6,03%, un'altra seduta fortemente negativa dopo i conti diffusi un paio di giorni fa. Per gli analisti, nonostante fosse in qualche modo atteso un rosso semestrale, questo rosso da 1,6 miliardi è stato comunque superiore alle attese, per cui anche oggi il titolo si è riposizionato. Sì, meno 6,03, giù Ferragamo meno 4,85, qua i conti non sono andati un granché. Sì, in realtà sono stati dei conti anche in qualche modo positivi, perché comunque l'utile è migliorato del 22,5%, i ricavi del 22,9%, diciamo che non hanno contenuto sorprese, per cui dopo la diffusione dei conti ci sono state un po' di prese di beneficio, come spesso accade sì. in questi casi. Nuove indiscrezioni su Mediobanca, sono sempre le stesse che ci siamo detti nei giorni scorsi, Guido, ossia la possibilità che ceda delle partecipazioni. Sì, in realtà prima si parlava di un progetto per fare una sorta di spin-off, una scissione, una società separata dove mettere le partecipazioni. Oggi, secondo quanto riportato da un quotidiano, sembra che ci sia un progetto per invece attuare una lenta discesa, per cui nelle varie partecipazioni, fra cui Rizzoli Corriere della Sera, Telecom Italia e Generali, una sorta di scelta di Mediobanca di venderle poco a poco. Rimane il fatto che ci sono questi pourparlers, queste cose sul mercato secondo cui potrebbero esserci comunque operazioni straordinarie per tirare fuori il valore da Mediobanca, e anche oggi ha fatto un più 1,82%. Allora, altri titoli, Camfin. Sì, per quello che riguarda Camfin era ben intonata per almeno questa mattina e anche per buona parte del pomeriggio, poi ha chiuso in realtà invariata. Il tema qui è ancora, diciamo, la battaglia per il controllo della holding che sta a monte della catena di controllo di Pirelli. Ieri c'è stato il consiglio che ha approvato i conti, anche qui sono emerse le differenze fra i vari soci, da una parte Tronchetti Provera, dall'altra Malacalza, e insomma il titolo che pure in questi giorni non si è mosso in modo molto violento, comunque rimane sotto l'attenzione degli operatori. Infine Credem. Credem più 5,57%, l'istituto ha pubblicato ieri a borsa chiusa la sua semestrale, la prima parte dell'anno è andata bene per il Credem, un utile netto consolidato di 66,3 milioni in crescita del 23% rispetto allo scorso anno, anche i ricavi sono stati positivi per il Credem e oggi in borsa si è visto con una performance superiore a quella di tutto il settore bancario, che oggi non è andato benissimo. Allora, altri titoli da segnalare, Guido? Altri titoli? Nessuno in particolare, forse solo fra quelli minori, questo più 27 di Euchedos, che è una piccola società quotata sull'Expandi, che si occupa di attrezzature mediche per le residenze sanitarie, più 27,66%, anche questa ha dato i conti, una società che usciva oltretutto da misure concordatarie perché era finita in difficoltà, ha ritrovato l'utile nella prima parte dell'anno, insomma una buona notizia. Grazie a Guido Maurino di Radio Cor Il Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera, grazie come sempre ai colleghi di Radio Cor per gli aggiornamenti di mercati puntuali che ci danno. Diamo un quadro finale di questa giornata, come si diceva Mediobanca positiva in guadagno dell'1,82%, l'automatica dell'1,17%, Snam di mezzo punto percentuale, Exor dello 0,48%, Terna dello 0,22%, Parmalat un guadagno dello 0,06%. Il resto sono tutti titoli in negativo, a partire da Monte dei Paschi, come si diceva, meno 6,03%, Ferragamo meno 4,85%, Impregilo meno 3,11%, scende del 2,8% Pirelli, del 2,7% Banco Popolare, Ubibanca del 2,5%, la Popolare di Milano altrettanto, così come A2A, Unicredit giù del 2,2%, Fiat del 2,08%. Siamo quasi in chiusura, abbiamo pochissimi minuti, però vogliamo fare un punto sull'America. Looking to make a profit with minimal risk? Tired of all those pesky employee benefits and pensions? Don't mind seeing jobs. E allora, questa è campagna elettorale, questo è un video caricato da barackobama.com, che è la campagna elettorale del presidente, contro la politica economica ideata da Mitt Romney. Mario Platero, buonasera, corrispondente del Sole 24 buonasera. Ore da New York, adesso a Tampa per la convention repubblicana. Brevemente, Mario, Che cosa dobbiamo aspettarci se Romney dovesse vincere questa? Che cosa dovremmo aspettarci se Romney dovesse vincere queste elezioni? Ma dunque il dibattito qui, devo dire, è molto molto chiaro in America. Ci sono due estremi che si confrontano. Scusate, tra l'altro, se c'è rumore di sottofondo, ma sono qui al Convention Center a Tampa, dove tra l'altro c'è un caldo piuttosto pesante. Sono poco fuori dal Convention Center. E dicevo, il dibattito è polarizzato perché da una parte c'è Barack Obama che preme per un maggiore statalismo, per un maggiore intervento dello Stato, per dei programmi sociali che dovrebbero essere ampliati e per un aumento delle tasse che dovrebbero andare a finanziare alcuni di questi programmi. Dall'altra ci sono i repubblicani che dicono esattamente il contrario: meno Stato e lasciamo le tasse come sono, perché se si tassano le persone si va a restringere il potenziale di crescita dell'economia, invece confermiamo i tagli fiscali che aveva deciso George W. Bush e dunque procediamo lungo questa direzione. In qualche modo i dati, i numeri ce li ha dati ieri sera Paul Ryan, il candidato alla vicepresidenza, che ha fatto il suo grande discorso qui alla convention, e ha fatto due pronostici che dice si verificheranno quando Mitt Romney e lui saranno alla Casa Bianca, e cioè in 4 anni, grazie al loro programma economico che vuole diminuire il ruolo dello Stato e tenere le tasse basse e incoraggiare gli investimenti, ci saranno 10 milioni di nuovi occupati negli Stati Uniti. Barack Obama in 4 anni ne ha fatti sì e no 2, ma soprattutto, ed è questo l'elemento interessante, Ryan ha promesso, si è impegnato che il peso dell'economia, il peso del ruolo dello Stato sull'economia nel suo totale scenderà al 20%, e adesso ovviamente è molto superiore, intorno al 30%. Naturalmente, quindi classico, come dire, quello che dovrebbe essere il classico programma repubblicano, per così dire, o insomma, o di un anche di un centrodestra europeo, se vogliamo. Grazie a Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, adesso in realtà inviato a Tampa in Florida per la convention dei repubblicani. Noi chiudiamo così questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno in redazione, Pietro Lacorte in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.